Quando stava dicendo aerobica ho pensato, oh signore, sta dicendo erotica, e dico, però magari anche quella, professor Barbanti, no? Perché Ma no? avvocato Falasca, segni anche questo, oltre a No, bere l'esame delle perché urine, perché sempre. voglio. Guardate, ho un foglio, sto segnando tutto. Praticamente ho finito la trasmissione con pieno di compiti. Libero di nome di Libero? fatto? Sì. No, libero di nome, di fatto sono coniugato. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Due caffè, per favore. Sì, subito. Che dolce visione, le mie preferite. Non dirlo a me. Sarà così terribile se ce ne dividiamo una. Scusi, potrei avere una di quelle belle ciambelle e un coltello? Ecco a lei. Chiunque sia stato ad inventarle era un vero genio. Ecco, direi che proprio la dolcezza non è esattamente la prima qualità che mi appartiene. Dai, dolcino, non dire così, io non sono d'accordo. Beh, però, insomma, lo sai che mi va subito il fumo agli occhi qualche volta. Perché sei una marchigiana dalla coscia lunga. Eccola là. Ecco, e quelle si infuocano. Però oggi, se tu sei d'accordo, non parliamo di quanto è dolce il nostro carattere, ma di quanto è dolce la nostra dieta. Ma sì, dai, una dieta ricca di zuccheri che ci rende anche un po' più teneri nei confronti degli altri, almeno lo spero. Ci metto il punto interrogativo alla fine di questa affermazione. Perché insisti, insomma, l'impatto sul carattere non è scientificamente dimostrato. Quello che è certo è che i medici dicono di evitare gli eccessi di zuccheri. In studio con noi c'è il nostro dottor Federico Bertuzzi, diabetologo dell'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno. Buongiorno a Buongiorno. Tutti. È vero che l'eccesso di zuccheri semplici viene effettivamente sconsigliato da noi specialisti. Infatti, l'eccessivo consumo di zucchero semplice, di saccarosio, di fruttosio può condurre ad un aumento dei trigliceridi, insulinoresistenza, un aumento del peso e nel caso di pazienti con diabete mellito può portare ad uno scompenso dei loro valori glicemici. Quindi la domanda è: quanti cucchiaini di zucchero avete già aggiunto al vostro caffè, al vostro tè, alla vostra macedonia, alla allo vostra yogurt colazione? Da quando vi siete svegliati? Sono le 11:12, contiamo i cucchiaini. Da quanto ho capito, allora, lo zucchero non è esattamente un investimento per la nostra salute, al limite può esserlo una bella fetta di torta per l'umore, però da donna di denari vi dirò che investire nello zucchero, non ci crederete mai, può dare anche delle belle soddisfazioni se naturalmente parliamo del nostro risparmio. E chiediamo conferma al dottor Maurizio Mazziero della Mazziero Research, buongiorno, che è uno dei massimi esperti italiani di materie prime. È così? Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta e ai vostri radioascoltatori. Beh sì, certo, anche con lo zucchero, ma non solo con lo zucchero, magari anche cacao, caffè, si può rendere più dolci i nostri investimenti. Magari ne parleremo poi durante la trasmissione. Ci racconterà tutti i segreti per poterlo fare? Insomma, facciamo colazione anche con il dottor Mazziero e vi ricordo che oggi cercheremo di controllare, facciamo anche i conti dello zucchero che circola nel nostro sangue. Ne abbiamo sentito parlare, la parola è glicemia. 800 24 00 24. Adesso partiamo. Essere e benessere. 3x5 25, 6x3 33, 2x8 48, 3x9 29, 6 più 2 42, 3x8 48. Se il numero perfetto è il 3, è l'8 quello raccomandato, specie se, come abbiamo detto, si riferisce ai cucchiaini di zucchero. Questa è la quantità che gli esperti invitano caldamente a non superare. 8 cucchiaini significa all'incirca 40 grammi, dottor Bertuzzi, ho fatto i conti giusti? Sì, è corretto, anche se la quantità massima consigliata ovviamente dipende un po' da quanto sono le calorie che un paziente assume, quindi dalla sua dieta, dalle sue caratteristiche cliniche. Quindi quello che noi diciamo è che non dovrebbe superare il 10% dell'introito calorico totale, quindi diciamo per una dieta di 2000 calorie effettivamente intorno ai 40-50 grammi al giorno, quindi 8, 9, 10 cucchiaini massimo. Secondo una ricerca recente svolta dal Credit Suisse Research. Hai visto che leggi anche i report finanziari? Brava. Hai visto? Ma sono diventata roscianina io. Brava. Noi siamo più dolci rispetto al passato, anche se in questa speciale classifica noi italiani ne usciamo bene perché ci comportiamo in linea un po' con la media, perché introduciamo zucchero e calorie più o meno in linea con quelle raccomandate, dottor Bertuzzi, quindi non dobbiamo preoccuparci troppo. Direi di no, l'alimentazione italiana è una delle più sane in tutto il mondo. Dottor Bertuzzi, quando parliamo di zucchero, noi lo leghiamo al rischio di sviluppare il diabete. Si dice anche, no, Deborah, ti sarà capitato, mangi tanti dolci, attenzione, mangi tanti zuccheri, attenzione al diabete. Insomma, c'è una relazione, ma è davvero così? Direi di no, in quanto lo zucchero semplice, tra l'altro, perché poi andrà fatta la distinzione tra zucchero semplice e complesso, lo zucchero è uno dei fattori della nostra alimentazione, quindi noi consigliamo ai pazienti un'alimentazione corretta, che vuol dire controllare la quantità totale di calorie, ma anche la qualità, quindi ridurre gli zuccheri semplici e anche l'apporto di grassi animali. Quindi è un'alimentazione nel suo complesso che deve essere tenuta sotto controllo più che il singolo componente. Quindi cerchiamo di fare le cose per bene, lo faremo nel corso della nostra trasmissione, invitando Infatti. Gli ascoltatori a chiamarci. Intanto stavo spulciando fra questo rapporto che hai indicato prima e leggevo che gli uomini consumano più cucchiaini di zucchero al giorno rispetto alle donne, 9 su 6. Beh, e quindi anche hanno qua bisogno siamo di un dolcezza. Po' più virtuosi. Allora, bravi sì, naturalmente bisogna esserlo con il consumo dello zucchero, ma come ci dicevano a scuola le nostre maestre, si impegna, ma potrebbe fare molto di più. E allora, tante volte, dottore, consumiamo dello zucchero anche senza accorgerci, no? Magari delle bevande sbagliate, mi viene in mente anche magari chi consuma molta frutta pensando di fare la dieta e però degli zuccheri li assume, non sono sicuramente raffinati, però magari qualche problema possono crearlo anche quelli. Certo, la frutta, un netto di frutta contiene circa 10-15 grammi di carboidrati, di zuccheri. Dobbiamo proprio imparare a leggere, a capire, a conoscere quello che mangiamo. Tante volte anche negli alimenti indicati senza zuccheri aggiunti, la persona pensa di non assumere carboidrati, ma in realtà zuccheri aggiunti vuol dire che non vengono nella produzione aggiunti zuccheri, ma il prodotto può essere ricco di carboidrati. Quindi è molto importante sempre essere attenti. Una volta sentivo in televisione, non mi ricordo chi ne parlasse, una persona che era raccontando della sua dieta, spiegava che non mangiava assolutamente riso perché era come mangiare un grandissimo piatto di zucchero. È così? È vero, 80% dello zucchero del riso è rappresentato da carboidrati. Allora, l'invito è, chiamateci, 800 24 00 24. Quanto è dolce la vostra dieta? Avete già raggiunto la quota di 8 cucchiaini di zucchero? A che punto siete? Potete come sempre intervenire al 349-238-6666 e seguirci su Facebook e su Twitter. Ma noi... Non barate chiedendo la dimensione del cucchiaino, perché sempre un cucchiaino è... Ma oggi vogliamo controllare la quantità di zucchero che assumiamo con la dieta, ma vogliamo anche controllare e provare a sensibilizzare sullo zucchero che abbiamo nel nostro sangue. Questo significa controllare i valori della glicemia, basta un semplice esame del sangue, dottor Bertuzzi. È vero, un prelievo di sangue a digiuno, fatto quindi alla mattina, che permette di controllare la quantità di sangue, che non dovrebbe essere superiore a 126, valore che comunque una volta dosato deve essere confermato una seconda volta. Allora, un doppio prelievo. Siamo ancora più precisi con la domanda agli ascoltatori, dovete andare a controllare gli ultimi referti che avete in casa, qual è stata l'ultima volta che avete misurato la vostra glicemia, perché preparando questa trasmissione Coletta io me la sono chiesta. E quando? Non me lo ricordo. Bene. E quindi devo andare a ricontrollare. Eppure per una serie di problemi le analisi le faccio tutte una volta l'anno, ma non mi ricordo se misuro anche la glicemia, andrò no. a controllare. Allora, noi abbiamo deciso di dedicare proprio oggi la puntata allo zucchero perché è la giornata, oggi è la giornata mondiale del diabete. Ogni anno in Italia, come nel resto del mondo, le associazioni del volontariato insieme al team di servizi di diabetologia organizzano eventi di informazioni e di sensibilizzazioni. Un dato è certo, il numero dei diabetici è sempre in continua crescita. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Marco Comaschi, membro della Commissione Nazionale Diabete al Ministero della Salute, in diretta dal villaggio dedicato al diabete allestito a Milano davanti al Museo della Scienza e della Tecnologia. È un'iniziativa promossa dalla alla Fondazione Ibdo e da Diabete Italia. Buongiorno professor Comaschi. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Intanto professor Comaschi, con Deborah la ringraziamo perché lei ci dà proprio in diretta, in anteprima, dei dati molto interessanti sul diabete che state presentando proprio in queste ore a Milano. Il diabete, abbiamo detto, ha raggiunto i numeri di una vera e propria pandemia e i numeri, ogni volta che si aggiornano le stime, crescono. A che punto siamo, professore? Siamo al punto che effettivamente le stime fatte una decina d'anni fa non si sono rivelate veritiere, ma per difetto, nel senso che purtroppo abbiamo raggiunto dei numeri ancora superiori a quelli previsti. Ad oggi abbiamo nel mondo circa 400 milioni di persone col diabete e circa 300 persone a grande rischio di averlo, perché hanno già delle alterazioni che potremmo definire di tipo pre-diabetico. La previsione che è stata fatta dalla Federazione Internazionale del Diabete, che è un organismo mondiale che raccoglie tutti i coinvolti nel problema, siano esse società scientifiche o associazioni di persone con la malattia, ha stimato per il 2035, quindi a distanza di circa 12 anni da adesso, che si raggiungerà il miliardo di persone tra quelli che avranno già il diabete e quelli che saranno soggetti a rischio di contrarre la malattia, perché con numerosi fattori di rischio, tra i quali, come diceva prima il collega Vertuzzi, glicemie un pochino più alte del dovuto soltanto al mattino. Borderline. Mm-hmm. Professor Borderline. Comaschi, da donna di denari non posso che chiederle i costi di questa patologia. Mi sembra di capire, anche da questi dati che state divulgando questa mattina, che sono piuttosto elevati, perché a parte l'impatto sul servizio sanitario nazionale, riferendoci al nostro paese, chiaramente questa è una patologia che condiziona molto anche la vita lavorativa, immagino, oltre che la vita sociale e la pratica sportiva. Quando si parla di costi dobbiamo sempre ragionare in termini sia di costi sanitari diretti, che comportano tutte le risorse che si consumano per curare le persone, sia di costi indiretti, cioè quelle condizioni per cui la malattia crea delle inabilità temporanee o non temporanee che possono condurre ad una riduzione di attività lavorativa, di anche di qualità della vita, e quindi costi di tipo intangibile. Quindi costi diretti e indiretti. Certo, dal punto di vista dei costi diretti, la stima che è stata fatta molto precisa, devo dire, nel nostro mondo occidentale, in particolare in Italia, ci dice che una persona con diabete costa alla società per la sua cura circa 3.000 euro l'anno. Quando una persona senza diabete costa circa 1.500, quindi il doppio esatto. Nel nostro paese i cittadini che hanno una malattia diabetica conclamata sono più di 3 milioni, sono circa il 5 qualcosa per cento della popolazione generale, ma consumano circa il 10% delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale. Insomma, questo è l'impatto ed è assolutamente rilevante. Professor Comaschi, non ci resta che investire in prevenzione. Fondamentalmente la prevenzione primaria, intesa come riduzione del rischio di contrarre il diabete, è l'elemento base sulla quale dobbiamo cercare di giocare il ruolo sia del mondo sanitario ma della società in generale, in tutte le sue politiche che possano condurre ad una riduzione di questo, certo, di questo carico, di questo peso sulla società. Insomma, come recita lo slogan della giornata, io al diabete non la do vinta, e ricordiamo che a fronte di 3 milioni di italiani che sanno di essere affetti da questa malattia, i dati dicono che 2 milioni, professor Comaschi, di persone sono diabetiche ma non sanno di esserlo. Esatto. Sì, diciamo che o sono diabetiche ma non sanno di esserlo, come è molto possibile, oppure che hanno comunque delle condizioni di prediabete che li predispongono a contrarre la malattia in tempi più o meno brevi. Questo è il discorso fondamentale, è quello sul sovrappeso, sull'obesità, sulla sedentarietà, sugli stili di vita. su condizioni quindi che coinvolgono la nostra quotidianità di vita, ma che possono e debbono essere affrontate nella maniera più adeguata per cercare di modificare la cultura, passando dalla cultura della sazietà e della sedentarietà ad una cultura dell'attività e del gusto, diciamo così. Dottor professor Comaschi, quanti cucchiaini di zucchero ha messo lei oggi? Io non metto zucchero nel caffè. Vede? Perché è un diabetologo, professor Comaschi. No, perché mi piace il caffè. Però quanti cucchiaini? Entro i 9 durante la giornata, dipende poi da quanti caffè prendi. Sì, anche un pochino meno. Diciamo che globalmente come zuccheri semplici la quantità, diciamo, normale nell'alimentazione quotidiana non dovrebbe essere superiore ai 40 grammi, che sono circa 8 cucchiaini. Grazie, professor Comaschi. Buona giornata e buon lavoro. Altrettanto. Posso leggere questo sms? Il conteggio dei cucchiaini di zucchero, con esso anche la caramella di zucchero che sta sopra la brioche. Avete presente quelle praline, no, di zucchero che stanno magari sopra qualche brioche per la colazione del mattino? Conta anche quello, dottore? Ma io direi ai pazienti di essere anche abbastanza distesi così, su questo problema, distesi adesso, non esageriamo. Flessibili, ecco, certo, è proprio un cambiamento di mentalità quello che viene chiesto, più che poi venire a quantificare il cucchiaino in più, il cucchiaino in meno. Allora, un goloso di gelato, quali sono? Contiene più zucchero quello confezionato o quello artigianale? Vabbè, adesso il dottore non fa il gelataio, ci dica un po' lei nella sua gelateria. Dipende dalla ricetta, quello che si può dire è che... Ma sono preparati, guarda, loro sanno tutto. Sanno tutto. Vada. Però il suggerimento è di acquistare prodotti artigianali, perché in genere hanno un ridotto contenuto di grassi deidrogenati. Sì. Quindi, però questo dipende chiaramente dalla qualità dell'azienda e la qualità degli ingredienti. Le piace questo sms? Oggi 2 cucchiaini di miele, 1 di zucchero di canna e 3 datteri. Va bene, sì. Ci piace, continuate a mandarceli. Ottimo, allora, invece c'è chi suggerisce l'utilizzo e il consumo di altri frutti, magari che ritiene siano privi un po' di zuccheri. La banana, per esempio, come sta a carboidrati, ci chiede Anna, e zuccheri? Allora, contiene un po' più di carboidrati rispetto agli altri frutti, 20-25 grammi per 100 grammi di prodotto. La banana è sconsigliata perché ha un alto indice glicemico, che vedremo poi dopo. Comunque, quindi questi carboidrati vengono assorbiti rapidamente, più rispetto ad altri frutti come la mela, la pera, l'albicocca, la pesca. Abbiamo Mario dalla provincia di Milano, Gianfranco da Verona. Scegli tu. Scelgo Mario perché la sua domanda ne raccoglie tante altre che sono arrivate anche con l'SMS, e se proprio devo essere precisa anche la mia, perché io sono una consumatrice di miele come Mario. Mario, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Bravo. Lo ripeta subito, Mario? Vada. Vada di nuovo. No, ripeta. Complimenti? Vada. Per la trasmissione. Bravo. Ci dica, Mario. Allora, io intanto faccio una piccola premessa. Sono un donatore di sangue e sono abbastanza controllato in linea generale. Ottimo. Sì. Comunque, oramai da parecchi anni siamo in 2 in casa e consumiamo solo miele in casa, perché poi in giro ovviamente si beve il caffè, comunque in casa noi in 2 in un anno consumiamo qualcosa come 16-17 kg di zucchero all'anno. Io non ci credevo, ho messo la data sulla confezione, perché quindi la domanda è questa: come sono messo, come siamo messi con questo tipo di consumo? Mario, grazie. Grazie Mario. Allora, siete ad un consumo che è inferiore probabilmente alla media italiana. Devo ricordare comunque che il miele rappresenta un alimento con zuccheri semplici in elevata quantità, quindi non farei una distinzione tra miele e zucchero semplice. Però ha anche delle proprietà. Il miele, sì, è vero che è la tradizione popolare li riconosce naturale da sempre, no? Certo, quello sì, però se noi lo valutiamo dal punto di vista proprio biochimico, di composizione, di quantità di zuccheri semplici, il valore è... Volevo fare questa precisazione per i nostri amici apicoltori, perché perché il miele è un alimento anche molto ricco, che ci regala dei nutrienti preziosi, vitamine, sali minerali, è corretto? Questo è corretto, poi considerando che ha anche diversi aromi, questi possono contribuire a rendere appetitoso un alimento senza aumentare. Comunque questa ve la voglio ridire, scusate. Usare quello al castagno, chiusa buona, perché è un po' amaro. Io questa ve la voglio dire, ogni tanto ve la metto lì. L'ho scoperta leggendo un'indagine della Cochrane Italia. Allora, se vi bruciate, ti capita, no? In cucina, prendi una pentola, diciamo, mi brucio spesso con il forno, fermatevi subito, miele. Mettete il miele, naturalmente quello liquido, brucia al momento moltissimo, ma un secondo non ti fa venire né la fiacchetta né la bruciatura, tutto guarisce. Questo per dimostrare le proprietà miracolose del miele, ma barba, è stato provato in barba al diabete. Quindi se vi bruciate, tenete il miele ma spalmatelo anche sul pane. Gianfranco da Verona. Buongiorno. Buongiorno, forse Filippo Aureggi mi dice no. Gianfranco, ci separano i mercati. Lei mi segue? Aspetti lì. Ci sente? Gianfranco? Sì. Mi dica di sì. Sì. Sì. Ok, grazie. Eccoci ritrovati in diretta e mi sono tolta la soddisfazione che Nicoletta di questo programma fino a questo momento non ha capito nulla, perché si fa risotto col miele di castagno. Sì, allora c'è questa ricetta buonissima che faccio un risotto al formaggio, dovrei dire un riso integrale, io uso nel caso rosa bianca, e nell'ultimo momento con la mantecatura aggiungo, mi guardano, Isotta dalla regia mi guarda con gli occhi sbarrati, aggiungo un cucchiaio di miele di castagno perché si sposa benissimo e buono. Dottor Bertuzzi me lo lascia, ma è vero che me lo lascia? Assolutamente. Anche perché chi è che deve stare attenta a consumare, a essere ligio nel consumo di zucchero? Le persone predisposte. Certo, sono persone, come ha detto anche prima il professor Comaschi, persone sovrappeso, obese o che comunque hanno un'età superiore ai 45 anni, anche tutti i pazienti che magari hanno avuto problemi cardiovascolari, sarebbe proprio l'occasione di fare un controllo della glicemia. E poi ricordiamo le donne che hanno avuto in passato diabete gestazionale durante la gravidanza. Chi ha in famiglia un familiare affetto con da diabete di tipo 2. E ricordiamo quella zona grigetta di glicemia, la glicemia che non è alta, 100, non è bassa? Certo, tra i 100 e i 126 rappresenta la condizione di alterata glicemia a digiuno, che è una condizione proprio dovrebbe mettere in allarme il medico e il paziente per fare degli accertamenti ulteriori e tenere sotto controllo l'alimentazione. Io ho solo l'età dei 45, insomma. guarda che lo sai che anch'io sono su quella soglia là. Buongiorno Maurizio Mazziero della Mazziero Research, buongiorno. Buongiorno a lei, Deborah, e a Nicoletta e ai vostri radioascoltatori. Subito la prima domanda è d'obbligo. Quanti cucchiaini di caffè, di zucchero questa mattina nel caffè, soprattutto quanti caffè? Caffè uno, mezzo cucchiaino. Che bravo, quanto è virtuoso il nostro ospite. Bravissimo. Sentiamo adesso... Non è tanto d'accordo. Significa che ha preso anche qualcos'altro. Sentiamo allora su che cosa è virtuoso. Salva Danaio. Poco di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero, la pillola va giù, tutto brillerà di più. Eh sì, la pillola va giù, ma lo zucchero in eccesso, lo abbiamo detto e ridetto questa mattina, fa male alla salute. Oggi però possiamo vederlo anche da un punto di vista diverso, persino profittevole per le tasche. Pensate un po', te lo saresti mai aspettato, Nicoletta? No, la pillola va giù, i denari vanno su. Esatto, perché lo zucchero è una materia prima agricola e pare che sia una delle più apprezzate dai trader, cioè quegli investitori che ogni giorno, con diverse operazioni finanziarie, acquistano e vendono telematicamente lo zucchero. E tra l'altro molti di queste figure professionali italiane e proprio in queste ore si incontrano a Rimini, dove c'è un grande evento dedicato proprio alla finanza, l'IT Forum Winter. Tra l'altro adesso proprio con lo zucchero pare che si stiano facendo degli affari interessanti, perché per lungo tempo le quotazioni sono state in ascesa, in crescita. Adesso non so se questo trend si è fermato, ma lo capiremo appunto con il nostro ospite. Quindi 800 24 00 24 se volete parlare di zucchero che introducete, di zucchero che circola nel nostro sangue, ma soprattutto se avete anche mai investito i vostri risparmi in un prodotto che comprende anche l'investimento in zucchero oppure in un'altra materia prima di questo tipo. Tra l'altro, per chi ci darà una risposta interessante, posso dire che ho due bei libri a disposizione, uno sugli investimenti in oro, uno sugli investimenti in petrolio. Ho due libri che posso regalare questa mattina. Certo, poi abbiamo dei barattolini di miele di castagno. Mamma mia, qua non ci manca nulla, abbiamo oltre alla libreria anche la dispensa. Il dottor Bertuzzi che ci misura la glicemia. Esatto, e cosa ci manca? Dottor Mazziero che ci fa fare adesso un po' di soldi investendo correttamente in materie prime, nello fattispecie appunto nello zucchero. Come si fa ad investire in questo settore, dottor Mazziero? Ma è molto semplice, sia per i trader sofisticati che per anche i semplici risparmiatori. I trader sofisticati in genere si rivolgono ai mercati dei derivati che vanno su oltreoceano, quindi poi a Chicago, a New York, per lo zucchero ad esempio a New York. È quotato anche a Londra, ma è di minore importanza. Ma anche il singolo risparmiatore può fare una puntatina sullo zucchero con quote proprio disponibili a tutti, e con questo ci sono diversi strumenti quotati a Milano che sono sia gli ETC, che sono una sorta di fondi come gli ETF per le azioni, diciamo qui abbiamo il al posto della F finale mettiamo la C perché si intende commodities, no? Materie prime in inglese. Sì, ecco. Sì. Poi dopodiché, dopo nella specificità è un veicolo finanziario, però non scenderei nel dettaglio. Altra ipotesi sono i certificati che sono emessi da alcune banche che sono specializzate nell'emissione di certificati su materie prime piuttosto che su indici azionari. Quindi non significa riempire la nostra dispensa di pacchi di zucchero. Vedi, come pensavamo io e esatto. Il dottor Bertuzzi. Allora, come vanno le quotazioni, dottor Mazziero? Ed è vero che il prezzo sui mercati finanziari dello zucchero è direttamente correlato alle quotazioni del petrolio, del greggio? Sì, anche se ha perso nel corso del tempo, in questi ultimi anni ha perso un po' questa correlazione. Diciamo che è stata abbastanza lineare questo tipo di correlazione intorno agli anni 2008-2010, dopodiché un po' con la crisi di fatto si è avuto anche un minore utilizzo dello zucchero come elemento da cui ricavare l'etanolo per miscelare nelle benzine. Ecco, il Brasile utilizza molto lo zucchero come carburante, zucchero inteso naturalmente la sua trasformazione in etanolo, come dicevamo, e mentre invece gli Stati Uniti utilizzano il mais. Le quotazioni di fatto, poiché la produzione era in surplus, sono scese negli ultimi anni, ma negli ultimi mesi, negli ultimi due mesi si è visto un risveglio di queste quotazioni. Adesso siamo nella fase di riassorbimento parziale, però quello che si vede è che per quanto riguarda la produzione americana il surplus sta diminuendo, per quanto riguarda l'Europa invece è deficitaria da molti anni. Questo perché, a mio modesto parere, l'Europa, la comunità europea non ha fatto delle politiche lungimiranti sullo zucchero. In Italia avevamo dei meravigliosi zuccherifici, ne è rimasto proprio ben poco. Mannaggia. Però io ho capito, dottor Mazziero, che è il petrolio che trascina lo zucchero, giusto? Sì, anche se in questo momento ha perso questa relazione, quindi era più una notizia di qualche tempo fa, sta un po' cambiando questa cosa qui. Perché questa relazione mi interessava adesso, più o meno, ci sono degli alti e bassi in tutte le relazioni, anche in quella tra il petrolio e lo zucchero, ma per la nostra salute spesso un valore ne trascina un altro, una condizione ne porta un'altra, insomma, no? Certo. Lo sappiamo, ci sono dei valori che si alterano e poi andiamo dal medico che ci fa il quadro e ci accorgiamo che quello che abbiamo individuato era la punta di un iceberg che si è trascinato poi dietro tutta una serie di valori sballati. Dottor Bertuzzi. Il nostro corpo è un organismo complesso, integrato, dove chiaramente un'alterazione, soprattutto a livello del metabolismo, ha una serie di ripercussioni. Nel caso del diabete, uno scompenso glicemico può determinare un rialzo dei trigliceridi, questi a sua volta possono determinare steatosi epatica, quindi l'infarcimento di grasso nel fegato grasso, e certo, quindi rialzo delle transaminasi. Siamo un organismo molto ben regolato e molto ben integrato in tutte le sue parti. Ricordate, se siete delle persone predisposte, l'identikit che ci ha fatto il dottor Bertuzzi, chiamateci anche per raccontarci non solo i cucchiaini che aggiungete, ma anche quelli che parlateci anche della vostra glicemia, perché noi vediamo oggi il buono e il cattivo dello zucchero. Allora, tra l'altro, a proposito dello zucchero visto anche come modalità per investire una piccola fetta del proprio risparmio, c'è un ascoltatore che ci chiede: ma ha una funzione di protezione dell'investimento simile a quella dell'oro? Lo chiediamo fra qualche istante, dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, a Maurizio Mazziero. A tra poco. Cuore e denari. Abbiamo appena finito le cialde. Quella era la cena. Questi sono il dessert. Come si fanno a distinguere i vari gusti? È come una roulette russa del cioccolato. Faceva parte del gioco, non sapevamo mai se il prescelto ci sarebbe piaciuto o no. Devi assaggiare la cioccolata calda. Venivamo qui quando nevicava. Vuoi farmi venire il diabete o solo ingrassare? Io questo film non me lo ricordavo, però. Ma la grande Laura Vanossi tira fuori di tutto. Zucchero, investimenti, quanto è dolce la vostra vita e la vostra dieta, e investite in zucchero? In zucchero, considerato come materia prima agricola, peraltro ce ne sono anche tante. Allora, eravamo rimasti a questa osservazione posta da un ascoltatore, dottor Maurizio Mazziero della Mazziero Research, che è uno dei massimi esperti italiani e forse europei di materie prime. Eccola. Dottor Mazziero, è vero che lei è un grande espertone anche di diamanti? No, ahimè, purtroppo no, perché tendo a confonderli con il vetro, quindi perché ci aveva incuriosito questa notizia di stamattina. Di Sotheby's, perché la stella rosa super diamante da 61 milioni. Ma te lo trovo un espertone anche su questo argomento per una delle prossime puntate, infatti. Dottor Mazziero, investire in materie prime agricole, come nella fattispecie il riso del quale stiamo parlando questa mattina, ha anche una funzione un po' di protezione dei propri investimenti? Si può paragonare l'investimento nel riso come l'investimento nell'oro? Certamente l'investimento nelle materie prime è un investimento che tende a mitigare gli effetti dell'inflazione, perché dobbiamo ricordare che l'inflazione non è nient'altro che l'incremento dei prezzi delle merci. L'importante è che l'investitore non faccia mai delle puntate singole e dirette su singole materie prime, salvo che magari le conosce direttamente, ma magari prenda dei panieri. Esistono dei prodotti già con dei panieri preconfezionati che riuniscono una serie di materie prime o alcuni settori, se c'è qualche settore di preferenza. Abbiamo detto appunto che sono degli strumenti di investimento un po' complicati, e qualche volta sono anche da tenere sotto osservazione, perché sono soggetti a anche forti oscillazioni a seconda dei momenti, naturalmente. E quando si investe in materie prime, visto che anche il dottor Mazziero prima ci indicava che per esempio i mercati di riferimento sono lontani da noi perché sono negli Stati Uniti o su altre piazze, bisogna anche stare attenti al rischio cambio. Dottor Mazziero, è così o non vale questa regola per il riso? No, vale assolutamente. Questi strumenti sono soggetti all'effetto cambio, tanto è vero che stanno nascendo alcuni di questi prodotti che sono heggiati, cioè coperti dal rischio cambio. In quel caso lì, diciamo, il rapporto euro-dollaro non entra a far parte di questa diciamo della performance, del risultato economico, insomma. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se hanno mai investito i loro risparmi in materie prime come lo zucchero, il grano, il mais. Ci risponde Vittorio: quasi tutte le volte che vado al supermercato. Non è 800 24 00 24, se volete raccontarci come ha fatto Vittorio, se investite e come investite. Ma dottor Bertuzzi, in fondo il dottor Mazziero sta parlando di sta allargando un po' il discorso, e quindi dagli zuccheri semplici sta passando agli zuccheri complessi, parla di carboidrati, perché e anche questi hanno un impatto sulla nostra glicemia, oltre che sui nostri risparmi e investimenti. Allora, i carboidrati si distinguono in zuccheri semplici e zuccheri complessi. Abbiamo fino adesso parlato di zuccheri semplici, che in qualche modo abbiamo detto per l'alimentazione vanno limitati. Non vanno demonizzati, ma vanno limitati come assunzione. Ecco, gli zuccheri, i carboidrati complessi invece fanno parte della corretta alimentazione, anzi viene consigliato l'assunzione nella nostra regime alimentare di circa 50% come apporto calorico di carboidrati, preferibilmente quindi carboidrati complessi, che sono meglio integrali, vero? Meglio integrali, certamente, quindi rispetto ai prodotti raffinati i prodotti integrali sono da consigliare. E sono rappresentati, li troviamo al supermercato, nel panificio, sono rappresentati dalla pasta, dal pane, dal cracker, il riso, tutti insomma i cereali, ecco, tutti i prodotti che contengono cereali. Però, ecco, proprio a proposito di questa differenza fra bianco e verdura, integrale, ecco, la maggior parte dei contratti di investimento, diciamo, sullo zucchero scambiati riguardano, dottor Mazziero, lo zucchero bruno, giusto? Mentre in Europa i principali contratti si scambiano sullo zucchero bianco. Ci racconta un po', ci spiega un po' meglio questo meccanismo? Ma sì, sono due, naturalmente tutti i contratti derivati, i contratti future hanno anche delle caratteristiche proprio fisiche di come è la materia prima, quindi non so, per il mais ad esempio viene definita l'umidità, la dimensione dei chicchi e così via, anche in questo caso penso che sia più una questione di marketing, hanno cercato a Londra quando è stato quotato questo tipo di zucchero, hanno cercato di modificare un attimo il tipo di zucchero per poter attrarre comunque delle contrattazioni. Senta, insomma, ma tutti questi prezzi che si formano sui mercati internazionali, che sono dei meccanismi molto lontani da noi, secondo lei ci può spiegare se si trasferiscono anche poi sul prezzo finale? Il pacchetto di zucchero che compriamo al supermercato ha un prezzo appunto che è direttamente in relazione con queste appunto transazioni finanziarie? Sì, tenuto presente che poi ci sono tutta una serie di altri costi che possono essere quelli della conservazione e anche del trasporto geografico. Ad esempio, quello che mi viene in mente è che in questo momento abbiamo il mais che a Chicago è quotato, ormai sta scendendo da diverso tempo. Questo perché c'è stata una produzione del 30% più elevata, certo, rispetto all'anno scorso, ebbene invece in Europa si fa fatica a trovare, si trova anche magari a buon prezzo magari in Ungheria, però il problema è che prima i camion venivano dall'Ungheria, portavano il mais in Italia e poi magari salivano su con delle piastrelle piuttosto che qualcosa, sì, d'altro. Oggi il problema è che l'Italia non esporta più, mm-hmm, quindi il rischio è che si fa arrivare un camion di mais dall'Ungheria e poi i camionisti rimangono qui diciamo con le braccia incrociate per una settimana o 20 mm-hmm, giorni, infatti. E quindi aumentano notevolmente i prezzi e quindi in Europa in questo momento stiamo vivendo questa condizione, sta aumentando di prezzo. Dottor Mazziero, c'è Mauro da Napoli che ha una domanda per lei e a cui naturalmente regaleremo i nostri libri. Mauro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono un piccolo risparmiatore e volevo fare una domanda molto semplice: se l'argento poteva essere in qualche modo legato anche all'andamento dello zucchero, meglio viceversa, visto che l'argento viene utilizzato anche a livello industriale, e se oggi può essere considerato un ottimo investimento. Grazie Mauro. Mazziero, una risposta telegrafica purtroppo, perché stiamo per chiudere. Grazie. Allora, l'argento è anche un metallo industriale ed è soprattutto per gli impianti fotovoltaici. È molto speculativo perché, nel senso che ha una volatilità molto elevata e comunque certo anche questo può rientrare benissimo negli investimenti sulle materie. Purché siano molto diversificati. Grazie a Maurizio Mazziero e buon IT Forum Winter. Buona giornata. Torni presto. Grazie a voi. A presto. Grazie a voi. Che facciamo? Che facciamo secondo te? Andiamo a sentire il giornale radio se c'è qualche bella notizia che ci stuzzica. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che il dottor Bertuzzi è qui, avete chiamato in tanti e risponderemo, parleremo di glicemia e quant'altro. Filippa Oreggi mi fa segno, andiamo. A tra poco. Cuore e denari. Nada azzurro le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta. Siamo tornati insieme. Ce la ridiamo un po'. Ce la ridiamo, c'è un'atmosfera abbastanza zuccherina. Sì, nonostante i miei caffè di stamattina sono sufficientemente rilassata. Sono felice e contenti perché Federico Bertuzzi e Deborah Rosciani hanno scoperto che praticamente sono separati alla nascita. Ta-tan. Sono tutte e due marchigiani. Caramba, che sorpresa. E quindi andranno a prendersi una tazzina di caffè molto insieme. Bene. 800 24 00 24. Con se poco volete zucchero però. Parlare dei cucchiaini che aggiungete al vostro caffè o quanto è dolce la vostra dieta, ma vogliamo dare voce alle vostre telefonate e parlare soprattutto oggi, in occasione della giornata mondiale del diabete, dello zucchero che circola nel nostro sangue. Si misura con un esame del sangue molto semplice e si chiama glicemia, ha dei valori che ci raccontano qualcosa della nostra salute. Prima di dare la parola ad Angelo, a Cinzia, a Davide, a Mirko, a Paola e a tutti gli ascoltatori che da adesso chiameranno il nostro centralino per superare la barriera rosa, dottor Bertuzzi, Abbiamo parlato di una zona grigia della glicemia, che è quella glicemia che ha dei valori tra la normale, non supera i valori soglia, ma è lì prossima, tra i 100 e i 126, se vogliamo dare dei valori. Sì. Allora, può capitare, vado a misurare la glicemia e mi trovo questi valori. Che cosa devo fare? Come posso modificare il mio stile di vita? Ma dato che qua c'è Deborah, noi vogliamo fare degli investimenti anche che rendano certo. a breve periodo. Mi dica in tre mosse che cosa devo fare. Una mossa importante è riparlarne con il medico, perché si può verificare, si può escludere definitivamente il diabete o confermare la diagnosi facendo un prelievo di sangue aggiuntivo, che si chiama ricerca di emoglobina glicata. La seconda mossa è comunque ripensare al proprio stile di vita, il che vuol dire se si è in sovrappeso perdere peso, se si è obesi perdere peso, e si può anche stimare circa una riduzione, cercare di ottenere una riduzione del 5% del peso corporeo, perché tanti studi hanno visto che è sufficiente perdere una modesta quantità del peso corporeo per ridurre significativamente il rischio del diabete. Quindi una persona di 100 kg o 70 kg potrebbe perdere già, e potrebbe essere sufficiente perdere già solo 5 kg del peso corporeo, quindi un obiettivo alla portata della maggior parte dei pazienti. Terza mossa? La terza mossa è attività fisica aerobica, perché una corretta alimentazione deve integrarsi con un esercizio fisico. Aerobico cosa vuol dire? Correre, ciclette, anche il ballo, canottaggio. Quindi sono attività alla portata di tutti, 20 minuti al giorno di attività fisica aerobica. E poi ovviamente smettere di fumare, dovrebbero tutti smettere di fumare, tanto più il paziente diabetico, perché fumo con diabete o a rischio di diabete, perché fumo con rischio o con diabete hanno l'effetto di amplificare i rischi di aterosclerosi, cioè di tutto del processo che conduce a malattie cardiovascolari. Quindi no al fumo in assoluto. Chi prendiamo? Grazie dottor Bertuzzi, cominciamo, è stato chiaro. Cominciamo con Cinzia, direi, perché ci pone una questione. Io prendo quelli che interpretano anche molte richieste di ascoltatori che ci scrivono al 349-238-6666. Quindi Cinzia si fa portavoce. Ottimizzi. Hai visto? Esatto, certamente. Vedi? Io sai che ho sempre il denaro in testa. Cinzia, come dire, sintetizza un po' il movimento, le richieste del movimento della stevia. Cinzia, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono una vostra fan, tra l'altro, tra di Nicoletta e Deborah, sia per quanto riguarda brava, il cuore. Grazie, sa quanto ci fa piacere. Infatti, che soprattutto le donne. Sono una runner, ecco. E con il problema che sono anche molto golosa, mi occupo di finanza per lavoro, e io ho sostituito appunto da diversi anni, prima ancora che fosse approvata in Italia, sì. E lo zucchero con la stevia, e addirittura adesso sono arrivata a un passo successivo, visto che esiste già un prodotto in commercio che fa metà zucchero e metà invece eritritolo. Cinzia, le posso chiedere, ma le piace? Piace come gusto, perché per me altera totalmente il gusto del caffè. A me non piace affatto. Da sola no, però io importo dall'America, approvato dalla Food and Drug eccetera, un prodotto che la mescola all'inulina e direi che non cambia poco il gusto. Cinzia, lei è eccezionale. No. Io guardi, l'ultima volta dagli Stati Uniti mi sono portata lo sciroppo d'acero, pensi lei quanto sono virtuosa, però adesso quanto mi bacchetterà. Avanti, Cinzia. Brava Cinzia. Dottore. Dottor Bertuzzi. La stevia è sicuramente un dolcificante molto promettente, ha delle proprietà molto interessanti e quindi auspico che ne venga incrementato l'uso, anche se io dico sempre che in tutte le cose ci vuole sempre della moderazione, essere un pochino flessibili, perché poi il controllo e l'uso dei dolcificanti è raccomandato nei pazienti con diabete, ma negli altri soggetti che non hanno la malattia insomma. Ma questa composizione che ha trovato negli Stati Uniti la nostra ascoltatrice, potrebbe, ci sono una serie di prodotti, gli Stati Uniti usavano già la stevia prima ovviamente di quanto stiamo facendo, cominciamo a fare adesso noi in Italia. Questa può essere una soluzione per modificare un po' il gusto, se non è... Che sa un po' di liquirizietta, sì, vero? Che è un allora pochino... Non ho capito perché non mi piace. Però insomma ecco... Sì? Adesso si va da Angelo a Trento. Buongiorno Angelo, benvenuto. Buongiorno Federica e anche al medico. Sì, c'è un'altra conduttrice in questo va programma. Bene, perché si è svegliato Deborah e Federico. Va bene, è stato eccoci carino qua. Comunque. Angelo, ci racconti. Vada. Scusi, allora, sì. Io la mattina, abitualmente ogni giorno, prendo un caffè intorno alle 6:40 con un cucchiaino colmo di zucchero, cucchiaino da caffè di zucchero. Dopodiché faccio colazione con una tazza di tè che preparo sul momento, alla quale aggiungo due cucchiai di zucchero. Due cucchiai? Cucchiaini sempre da caffè, però non un cucchiaino da tè. No, cucchiaino da caffè. Nel più magretto, quindi Angelo, lei la sua domanda è: ma Angelo, lei è super promosso, anche perché noi rompiamo il capello in 4 e 8 cucchiaini, eccetera. Esatto, però in realtà cosa facciamo? Magari beviamo delle bevande, gasate anche, dolci, che sono molto zuccherine. Certo, una lattina di Coca-Cola, voglio ricordare, da 300, quelle classiche, contiene 35 grammi di zucchero, quindi contiene 7 cucchiaini di zucchero. Allora uno magari sta attento al cucchiaino nel caffè, poi si beve una lattina di Coca-Cola o di Pepsi o di Fanta, tanto per fare dei nomi, diciamo tutte, diciamo tutte che non siano light, certo, che non siano light, e alla fine ha preso la quota di calorie di zuccheri semplici. Tenendo conto, dottor Bertuzzi, ma me lo racconti bene lei, che le calorie che noi assumiamo con i solidi non sono uguali con le calorie che ci arrivano dai liquidi. È vero, infatti è stato dimostrato che gli zuccheri semplici assorbiti con le bevande zuccherine in qualche modo passano inosservati, quindi non danno senso di sazietà. Ingannano il cervello. Ingannano il cervello, e anche a livello del metabolismo non vengono poi presi in considerazione, per cui il proprio organismo richiede poi nuove calorie come se non avesse assunto niente, a differenza delle stesse calorie, degli stessi zuccheri semplici, stessa quantità assunta tramite cibi solidi. Per cui questo è uno dei meccanismi che è stato proprio ipotizzato come responsabile dell'aumento del peso corporeo nei pazienti che abusano di bevande zuccherine. Oggi normalmente anche gli stessi succhi di frutta, quindi ricordo, il nostro amico, più che contare i cucchiaini di zucchero, quelli da caffè, non quelli da tè, eccetera, deve interrogarsi se magari beve nel corso della giornata qualche bevanda zuccherina. Si dice zuccherina, non mi viene. David da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Parte subito il libro, Deborah... anche quello sulle materie prime gli regaliamo. Vai. Anche quello. Grazie mille. Senta, io allora in casa mia, in famiglia, con tre bambini e mia moglie, abbiamo completamente eliminato ormai da anni bevande gassate e merendine, quindi tutto quello che è zuccherato, e ragazzi lo possono mangiare in feste fuori, ma in casa niente. Limitatamente. Io però volevo chiedere, e noi anche i dolci cerchiamo di farli con il miele e lo zucchero di canna, però c'è un po' di confusione con questo zucchero bianco che è chimico, che fa male. E volevo delle precisazioni in merito. Cioè, allora, le chiediamo al dottor Bertuzzi. Raffinato, certo. Raffinato, ecco. Le chiediamo al dottor Bertuzzi. Rimando comunque sui post del Daily Lab, vero Laura, che mi dice di sì. Abbiamo un post proprio del dottor Avoledo che ci piace, il dottor Luca Avoledo, naturopata, che fa una distinzione che può esservi utile. Ma dottor Bertuzzi. Ma il discorso era stato già accennato prima, la quantità di calorie, le caratteristiche del zucchero semplice, cioè dello zucchero di canna o del miele, vanno ricercate in qualche componente aggiuntivo più che come quantità di carboidrati, di zuccheri semplici o di calorie di per sé, perché dal punto di vista del contenuto di zuccheri semplici è praticamente lo stesso. Lo zucchero di canna ha un aroma un po' diverso, magari ha qualche minerale, ma dal punto di vista calorico ha lo stesso significato. Sì, posso leggere un messaggio di Clelia? Sì. Sai perché? Perché Clelia ci scrive sempre, soprattutto quando ci occupiamo di alimentazione, e evidentemente promuove il consumo di alimenti nei negozi biologici, perché probabilmente lo avrà Clelia, altrimenti non andrebbe sempre un po' lì a punzecchiarci. Allora Clelia ci dice, visto che è rimasta così incuriosita dal fatto che ho detto che lo sciroppo d'acero l'ho portato dagli Stati Uniti, lei dice, lo vendiamo in tutti i negozi biologici anche in Italia, ma vuole mettere il gusto di comprare quello americano, di farsi la pancake americana larga con un diametro di un metro, perché Deborah doveva insomma portarci qualche cosa e ha detto che cosa gli porto per fargli sentire un po' il profumo americano, ma poi lo compra naturalmente anche nei bio. Quindi Clelia stia tranquilla, era solo per raccontare un piccolo episodio, rimandare all'ascoltatrice di prima che compra la stevia e la fa arrivare dagli Stati Uniti. Paola, buongiorno, ci chiama da Catania, la città del mio papà, buongiorno. E quindi gradi quanti stamattina? Pronto? Pronto. Sì, ecco, non ti sentivo, scusa. Gradi quanti stamattina a Catania? No, io sono in canottiera, sono a casa ma sono in canottiera. E noi qua, che abbiamo la bava alla bocca. Quindi si sta bene. Ottimo. Al sole, ho anche steso la biancheria, ero al sole, quindi... E noi invece in casa con i termosifoni che vanno e asciughiamo dentro. No, sugli stendini. Siamo fortunati, pagheremo un po' di meno. Brava, brava. L'altra volta stiravo una camicia e veniva sul profumo di arrosto. Dottor Bertuzzi, non ha fatto la domanda. È a disposizione di Paola. Sì, sì. Dunque, io chiamavo perché è molto strano che i dietologi, perché insomma il diabete di solito, anche se sappiamo che non è così, di solito colpisce anche chi è in sovrappeso o comunque che ha una tendenza. E quando si va dal dietologo si punta sempre su queste diete ipocaloriche e non su delle diete iperproteiche, perché una dieta ricca di proteine, insomma, dovrebbe mantenere intanto costanti i livelli di insulina, aumentare il metabolismo, stimolare un po' il dimagrimento. E quindi ovviamente senza portare agli estremi. Io personalmente non ho problemi di sovrappeso, sono una normopeso. Sì. Sono una ex golosa, nel senso che ho sempre abusato un po' troppo di dolci. Sì. Però Paola, la sua richiesta o la sua osservazione qual è? Perché da un paio di anni faccio questo, evito gli zuccheri, faccio dei dolci utilizzando dei dolcificanti, ecco, volevo capire perché non si punta proprio per combattere il diabete e comunque sulle diete iperproteiche, dieta un po' iperproteica, allora, combatti i livelli di grassi. Grazie Paola, potrebbe essere una soluzione perché... Paola? La dieta che viene consigliata da tutti gli specialisti, riconosciuta con tutta una serie di studi clinici, è una dieta bilanciata che ha il 50% di carboidrati, il 35% di proteine e il 20% di proteine e un 20% di grassi. O 15% di grassi. La dieta bilanciata è questa, che si ispira un po' al modello della dieta mediterranea. Le diete iperproteiche possono avere il vantaggio di favorire una riduzione del peso in tempi un pochino più rapidi rispetto alla dieta bilanciata, però mettono a rischio il paziente poi di un aumento dei valori di colesterolo, per esempio, perché iperproteica vuol dire spesso mangiare poi più prodotti animali e quindi ha tutta una serie poi di svantaggi e di possibili effetti. Allora, a proposito di diete, senta che relazione che le faccio, dottore, questa mattina. Allora, no, perché io mi occupo chiaramente di indici di borsa, il CAC40, il DAX 30, il FTSE MIB e tanti altri, però qua... Esatto, brava, le clausole di azione collettiva, ma qua parliamo di indice glicemico che mi incuriosisce, perché io ho moltissime amiche che fanno la famosa dieta zona, che se non mi sbaglio è proprio quella che cerca di fare in modo che si tenga sotto controllo questo indice glicemico, è molto equilibrata mi pare, loro sono in ottima forma, anche da molta energia, non si devono assumere alimenti strani né in particolari ore della giornata, e è corretto questo? Questo è corretto, è correttissimo, tanto è vero che l'evidenza che l'indice glicemico alto sia associato con un aumento del peso è un'evidenza anche questa scientificamente molto ben supportata. L'indice glicemico vuol dire che gli alimenti e i carboidrati vengono assorbiti lentamente, ma non è che è una dieta dove non ci sono carboidrati. Certo. Quindi si tratta di prendere degli alimenti contenenti carboidrati, alimenti che hanno un basso indice glicemico. Che varia anche ad esempio con la cottura. Dal grado di cottura, dal grado di maturazione della frutta. E un trucco, diciamo, per abbassare l'indice glicemico di alcuni alimenti è quello di mescolarli insieme alle proteine, che in qualche modo ne rallentano l'assorbimento. Quindi sono perfettamente d'accordo a dare importanza, a valorizzare l'indice glicemico, però indice glicemico basso non vuol dire dieta iperproteica, vuol dire una dieta bilanciata con dei carboidrati complessi. Ricordiamo, sempre sulla pagina di Cuore Denaro, potete... adesso ritrovare un'intervista che abbiamo fatto al dottor Attilio Speciani sull'indice glicemico della patata. Perché deve rimanere indietro di cottura, me lo ricordo benissimo, come la pasta. E ricordiamo anche che abbiamo un'intervista proprio all'ideatore della dieta zona Barry Sears, che raccomanda tra l'altro di non fare passare più di 5 ore da un pasto all'altro. Le sembra una buona idea, dottor Bertuzzi? Può aiutarci a tenere sotto controllo i valori della nostra glicemia? Mangiare spesso in un secondo? Sì o no? no? Sì. Ha detto un sì. Un ni. Eccolo là. Non vorrei, se posso aggiungere una cosa, che questo sia un escamotage da parte del paziente che alla fine continua a mangiucchiare e poi non viene a non si rende conto di... Non far passare 5 ore ma non mangiare in mezzo alle 5 ore. Abbiamo lasciato un po' fuori la dieta dei bambini, perché chiaramente molte mamme ci denunciano il fatto che sono tutti molto golosi e quindi chiaramente qua è impossibile controllarli, però bisogna provarci, dottore, giusto? Ecco. Ovviamente le merendine effettivamente sono da limitare. Potrebbe essere un suggerimento alle mamme di lavorare un pochino più in cucina e di preparare loro dei manicaretti per i bambini. Vedi la frecciatina. Ottimo, anche le nostre mamme. Arrivederci, magari. Grazie. Dottor Bertuzzi, grazie, a domani. A domani. Cuore e denari.